Il re Baldassar servì un solenne banchetto ai suoi 1000 dignitari e alla presenza di costoro fece abbondanti libagioni di vino. Baldassar ordinò tra i fumi del vino di portare i vasi d'oro e d'argento che suo padre Nabucodonosor aveva asportato dal Tempio di Gerusalemme, affinché vi bevessero il re, i suoi dignitari, le sue mogli e le sue concubine. Così si portarono i vasi d'oro e d'argento che erano stati asportati dal santuario del Tempio di Dio a Gerusalemme, e in essi bevvero il re, i suoi dignitari, le sue mogli e le sue concubine. Mentre bevevano vino e lodavano gli dei d'oro e d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra, improvvisamente apparvero delle dita di mano d'uomo e si misero a scrivere dietro al candelabro, sopra la calce della parete del palazzo reale. E il re vedeva il palmo della mano che scriveva. Allora il re mutò i colori della faccia e i suoi pensieri lo turbarono. Le giunture dei suoi fianchi si sciolsero e i suoi ginocchi battevano l'uno contro l'altro. Il re ordinò con autorità di far venire i maghi, i caldei e gli astrologi. Il re dichiarò ai sapienti di Babilonia: «Chiunque leggerà questa scrittura e mi farà conoscere la sua interpretazione, indosserà la porpora, gli si metterà una collana d'oro intorno al collo e sarà terzo nel governo del regno». Allora accorsero tutti i sapienti del re, ma non riuscirono a leggere la scrittura e a darne l'interpretazione al re. Così il re Baldassar rimase molto turbato, la sua faccia cambiò colore e i suoi dignitari furono atterriti. La regina, scossa dalle parole del re e dei suoi dignitari, entrò nella sala del convito. La regina prese a dire: «O re, vivi in eterno, non ti turbino i tuoi pensieri e il colore della tua faccia non cambi. C'è un uomo nel tuo regno che possiede lo spirito degli dei santi. Fin dai tempi di tuo padre furono trovati in lui intelletto, intelligenza e sapienza simile alla sapienza degli dei. Sicché il re Nabucodonosor, tuo padre, lo pose a capo dei maghi, degli indovini, dei caldei e degli astrologi. Poiché uno spirito superiore, scienza e intelligenza, l'interpretazione dei sogni, la conoscenza degli enigmi, la soluzione delle cose difficili sono state trovate in lui, Daniele, a cui il re pose nome Baltasar. Ora sia chiamato Daniele ed egli indicherà l'interpretazione». Così Daniele fu introdotto alla presenza del re. Allora il re prese a dire a Daniele: «Sei tu, Daniele, dei deportati di Giuda, che il re mio padre condusse dalla Giudea? Ho inteso di te che hai lo spirito degli dei e che intelletto, intelligenza e sapienza superiore si trovano in te. Ora sono stati fatti venire alla mia presenza i sapienti e gli indovini perché leggessero questa scritta e me ne indicassero l'interpretazione, ma non sono stati capaci di indicare il significato della cosa. Io ho inteso che tu puoi dare spiegazioni e risolvere cose difficili. Ora, se tu sei capace di leggere la scrittura e di farmene conoscere il senso, rivestirai la porpora, una collana d'oro sarà posta intorno al tuo collo e condividerai, come terzo, il potere del regno». Allora Daniele rispose e disse al re: «I tuoi doni tienli per te, e i tuoi regali dalli ad un altro. Tuttavia io leggerò la scrittura al re e gli indicherò il significato. Tu sei il re. Dio Altissimo aveva concesso regno, grandezza, potenza e maestà a Nabucodonosor tuo padre. E per la grandezza che gli aveva concesso, tutti i popoli, le nazioni e le lingue lo temevano e tremavano davanti a lui. Uccideva chi voleva e lasciava in vita chi voleva, innalzava chi gli pareva e abbassava chi voleva. E siccome il suo cuore si era inorgoglito e il suo spirito si era indurito fino all'arroganza, fu deposto dal trono della sua regalità e gli tolsero la sua gloria. fu espulso di mezzo ai figli dell'uomo, divenne simile il suo cuore a quello degli animali, e la sua dimora fu con gli asini selvatici. Gli dettero in pasto erba come ai buoi, e dalla rugiada del cielo il suo corpo fu bagnato, finché non riconobbe che Dio Altissimo domina sui regni umani, e sopra vi colloca chi vuole. Ma tu, Baldassar, suo figlio, non tenesti umile il tuo cuore, benché tu sapessi ogni cosa. Ti sei innalzato contro il Signore del Cielo, ti sei fatto portare davanti i vasi della sua casa per bervi il vino, tu e i tuoi dignitari, le tue mogli e le tue concubine, ed hai reso lode agli dei d'argento e d'oro, di bronzo, di rame, di legno e di pietra, che non vedono e non sentono e non conoscono, invece di glorificare il Dio nella cui mano è il tuo spirito e al quale appartengono tutte le tue vie. Allora egli ha inviato il palmo della mano e ha tracciato questa scrittura. Questa è la scrittura che è stata tracciata: Mene tekel peres. Questo è il significato delle parole: Mene, Dio ha misurato il tuo regno e gli ha fissato un termine. Tekel, sei stato pesato nella stadera e sei stato trovato al di sotto. Peres, è stato diviso il tuo regno ed è stato dato ai Medi e ai Persiani. Allora Baldassar ordinò che vestissero Daniele di porpora e ponessero intorno al suo collo una collana d'oro e proclamassero che egli era terzo nel governo del regno. In quella stessa notte, Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso.